In giro con gli avvoltoi, infatti ci ha seguito un falco. Quando mischio l'alcol, non abbasso, io al massimo salgo. In tutti i sensi, doppi tagli netti, io non sfumo un cazzo. Armi nel porto di Taranto, diventa per l'Harbor sto prodotto. Ti manda sulla luna come Neil Armstrong. Il mio idolo è un negro che canta, non è Louis Armstrong. Banconote sporche, si passano lights in bagno. Pagavamo 8,30, un chilo di fumo del cazzo. Mio Dio, ho fatto i soldi, non dicendo quasi un cazzo. Parlando di Bianca, di armi e di amore come un cozzaro. I soldi sono un'ossessione, per loro sono sonnambulo. Mi hanno dato voce, giuro che non torno a fonologia. Ho fatto più danni del previsto, amici in galera in Francia. Come il conte di Monte Cristo, ero davanti un bivio. Ho la rischio a Massafra, solo salite drogati come a San Francisco. Io terrone, terrone, terrone, terrone. Sono a pranzo da mia mamma, cena in un posto tenore. Terrone, terrone, terrone, terrone. Amici con la barba lunga che a tutti fanno terrore. Terrone, terrone, terrone, terrone. Stringo la mano di tutti, dal bracciante all'assessore. Terrone, terrone, terrone, terrone. Essere il migliore è diventato un'ossessione. Fa freddo, manga avviene, logo fatico chi non vuoi. Filmano sud su esigenti, filmano nord su costoso. Venga la ruta, fanno appello, perché a ruba, o perché Roma, o perché fui si sta in rete. In ogni caso tu merita sempre. Uffa, magari, quasi quasi mi rungo un po'. Bucla, non c'è niente, quasi quasi ti faccio agosto. Una serata mi faccio un coppa, una filata non lunga mai. Espanita da tutti i soldi, la già ci sembrano già accorti. Non vengo prima né dopo, sto una manigliata a tutto parte. Bello vedi quando mi sei macchina rosso, parto non preso il posto. Quando i fit sono che il nostro, Napoli amica, Napoli a vita. Ta ta ta ta rin di vetro, le macchine però che dite. Per capire solo si ma capite. Tengo un guanfo nei stipendi a rapi, ciò ma già muovere, muovere, muovere. Povera loro che ancora non anzo, non faccio so passo mi stagli. Per quello mi tira a presto, se ci fai casa non tira a segno. Basta che la gara dimostra, penso che l'ha già fatto già. Terrone, terrone, terrone, terrone. Sono a pranzo da mia mamma, cena in un posto tenore. Terrone, terrone, terrone, terrone. Amici con la barba lunga che a tutti fanno terrore. Terrone, terrone, terrone.